Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Erdogan ospita i leader arabi e attacca su Gerusalemme. Riconosciamola come capitale palestinese. Mosca non è la nostra posizione. Ryanair minaccia i piloti italiani in caso di sciopero per Calenda è indegno, intervista al Jus Laborista, atto illegittimo. Chris Froome, positivo al doping durante la Vuelta, avrebbe usato un broncodilatatore, curavo l'asma con dosi illecite, dice lui. Con il voto Italia al bivio e rischi di arretrare, secondo Confindustria, stime del PIL al rialzo, più 1,5% sia quest'anno che il prossimo. L'Alabama elegge un senatore democratico dopo 20 anni, la maggioranza di Trump scende a soli 2 voti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, la nostra pagina Facebook, dalla quale come sempre andiamo anche in diretta video, e se volete potete commentare e scriverci anche là, in diretta video dalla nostra pagina, da quella di Radio 24. Dall'altra parte del vetro, Roberta Frisani in regia, Laura Fagin in assistenza e in redazione, e anche Gianluca Nicoletti che sta illustrando e sta mostrando una strana figura di plastica che forse lo rappresenta, forse un Umarell. Iniziamo dunque e iniziamo con gli esteri e con Gerusalemme, con Erdogan che ospita il vertice dei leader arabi. Dobbiamo riconoscere lo Stato palestinese con i confini del 1967 e Gerusalemme, capitale dello Stato occupato di Palestina. Così Erdogan ha aperto il summit straordinario dei paesi islamici organizzato ad Istanbul come risposta alla decisione di Trump di trasferire l'ambasciata americana a Gerusalemme, riconoscendola così di fatto capitale di Israele. Israele, ha proseguito Erdogan, è uno Stato occupante e terrorista. I suoi soldati uccidono i bambini di 10 anni e li arrestano. Almeno 196 paesi, ha proseguito, sono contrari alla decisione di Trump, e poi ha ringraziato le nazioni che si oppongono e il Papa, con il quale ha avuto un colloquio telefonico qualche giorno fa. Al summit, al quale partecipano i rappresentanti di 57 nazioni, sono presenti tra gli altri Abu Mazen, re Abdallah di Giordania, e il presidente iraniano Hassan Rouhani. Proprio Abu Mazen, prendendo la parola dopo Erdogan, ha detto: d'ora in poi i palestinesi non accetteranno più alcun ruolo di mediazione degli Stati Uniti. Dopodiché ha concluso ribadendo la necessità di riconoscere Gerusalemme Est capitale dello Stato della Palestina. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. Restiamo all'estero, poi passeremo alle altre notizie. L'Alabama elegge un senatore democratico e consegna all'opposizione uno Stato che i conservatori controllavano da oltre 20 anni. Sconfitti il candidato repubblicano Roy Moore, che è stato travolto dagli scandali per accuse di molestie sessuali, e con lui il presidente Donald Trump, che così riduce i margini di manovra in Senato, dove a questo punto ha solamente 2 senatori in più rispetto ai democratici. A lungo in bilico, alla fine la vittoria del democratico Doug Jones con il 49,5% contro il 48,8% dell'avversario, che chiede un riconteggio, al momento però escluso. Esulta appunto Jones, che guadagna il seggio al Senato. Il popolo dell'Alabama ha più in comune di ciò che lo divide. Abbiamo mostrato non solo all'Alabama ma al paese che possiamo essere uniti. Torneremo tra poco a parlarne in America 24. La vicenda Ryanair, con la lettera nella quale si minacciano i piloti in vista dello sciopero previsto per il 15 dicembre. La compagnia ha scritto che chi sciopera rischia sanzioni. Tra le conseguenze previste, la perdita di futuri aumenti in busta paga, secondo l'accordo, di trasferimenti o promozioni. Un atto indegno, lo definisce il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Abbiamo interpellato Giampiero Falasca, avvocato del lavoro presso lo studio DLA Piper ed editorialista del Sole 24 Ore. È un'azione chiaramente illecita, almeno secondo le norme della Costituzione e il diritto del lavoro italiano, fondamentalmente per 2 motivi. Il primo, perché si vieta di esercitare il diritto di sciopero, che è un diritto garantito dall'articolo 40 della Costituzione e che non può essere limitato o compresso, può essere solo regolamentato dalla legge, come succede nei servizi pubblici essenziali. E poi perché c'è addirittura la minaccia di azioni ritorsive. Di fronte a questa minaccia, già oggi il sindacato potrebbe agire in giudizio, perché c'è una procedura speciale che si chiama repressione della condotta antisindacale, prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, che consente di chiamare in giudizio immediatamente chi si rende responsabile di una condotta che viola le prerogative sindacali, e il giudice con immediatezza, addirittura la legge di 102 giorni, potrebbe ordinare al datore di lavoro di interrompere la condotta antisindacale. Qui purtroppo è una cosa davvero fuori dall'ordinamento, ma non dal nostro ordinamento, da qualsiasi ordinamento occidentale. Non è accettabile, non è ammissibile, perché rompe poi anche un patto fondativo dei rapporti collettivi sul lavoro. Cioè, lo sciopero poi può essere regolamentato. Io sono promotore di una legge che in qualche modo favorisca la riduzione degli abusi, ma questo è un altro conto. Qui c'è una minaccia diretta a non aderire a uno sciopero indetto. Confindustria oggi ha presentato le nuove previsioni per il 2017 e il 2018, ma ci si sta concentrando naturalmente anche su quello che potrebbe essere l'effetto del voto sul nostro paese. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. L'Italia è agganciata al treno della crescita mondiale, non si intravedono rischi di deragliamento, il Centro Studi di Viale dell'Astronomia conferma i segnali positivi per la nostra economia, si rafforza infatti il recupero con stime riviste leggermente all'insù, in particolare la crescita del PIL all'1,5 nel 2018 anziché all'1,3 come precedentemente atteso, anche se resta sempre ampio il divario dal picco pre-crisi. Per colmarlo infatti bisognerà aspettare il 2021, trainare questa ripresa all'export e gli investimenti, bene anche l'occupazione, che dice Confindustria non è più la cenerentola della ripresa. Per gli industriali però bisogna stare attenti e non disperdere questi risultati. Le prossime elezioni rappresentano in questo senso un bivio: o proseguire nel cammino delle riforme o non fare nulla e tornare indietro. Confindustria però oggi ha lanciato anche un piano per l'Africa che integri gli obiettivi europei e del quale l'Italia sarebbe prima attrice. Per il presidente Boccia occorre realizzare un partenariato con questo continente, con un passaggio dagli aiuti agli investimenti, considerarlo come centrale strategico. L'Africa è una partita decisiva non solo per l'Italia ma per l'intera Europa, ha detto anche il ministro dell'Interno Minniti presente qui al seminario che si è appena concluso. Dobbiamo pensare, ha detto il ministro, ad un rapporto con l'Africa che va molto oltre la gestione dei flussi migratori. E da Confindustria è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Vi diamo conto delle dichiarazioni di questa mattina del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che hanno lasciato e stanno lasciando perplessi in molti. Per Emiliano il cantiere TAP di Melendugno sembra Auschwitz. Se vedete le fotografie, dice, è proprio identico. Hanno alzato un muro di cinta con filo spinato. È impressionante. Stanno militarizzando inutilmente la zona. I cittadini si sentono coartati. Vedono in quella struttura qualcosa che ricorda cose tristi della storia. Queste le parole di Emiliano. All'indomani di un nuovo giro di polemiche tra lo stesso Emiliano e il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, dopo l'incidente che c'è stato in Austria che ha interrotto il flusso di gas per alcune ore in arrivo dalla Russia e verso il nostro paese, polemica innescata proprio appunto perché TAP sarebbe un'altra fonte di approvvigionamento di gas. Qual è il quadro della situazione oggi proprio dall'Austria? Lo chiediamo a Sissi Bellomo del Sole 24 Ore. Ciao Sissi, buongiorno. Sì, buongiorno. Le indagini sono ancora in corso sulla causa dell'incidente di ieri in cui è morta una persona e ne sono state ferite 21. La società che gestisce l'hub di Baumgarten propende per un guasto tecnico a uno dei filtri dell'impianto del gas. L'operaio morto era proprio impegnato nelle verifiche su uno dei filtri. Vanno comunque avanti le indagini sia interne sia da parte della polizia austriaca. Nel frattempo tutti i flussi di gas sono comunque ritornati normali, per cui la situazione si sta normalizzando anche in Italia. Il prezzo del gas sul mercato spot, sul mercato italiano, è tornato intorno a 28 euro per megawattora, che è un prezzo comunque elevato ma non certo i picchi raggiunti ieri. E si comincia intanto negli ambienti dei trader a parlare di quella del rally che c'è stato ieri, che verso la chiusura l'ha portata addirittura verso 80 euro. C'è qualcuno che sospetta anche qualche manipolazione di mercato. E grazie a Sissi Bellomo per questo aggiornamento. Il giorno di pausa oggi per il maxi processo alla Popolare di Vicenza. L'udienza preliminare iniziata ieri riprenderà domani e dopo. L'ex presidente Zonin, uno dei 7 imputati, alle 18 sarà sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta a Roma. E sempre a Roma questa mattina si sono riunite le associazioni dei consumatori. Sentiamo. aumentare la dotazione del fondo per le vittime dei crack bancari, riducendone i tempi di attuazione. Queste le richieste delle associazioni dei consumatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia, che a Roma hanno incontrato i gruppi parlamentari per chiedere modifica all'emendamento presentato in Senato. 50 milioni in due anni non sono niente, ci spiega Barbara Puschiasis di Federconsumatori. Parliamo di 4 miliardi, quindi l'importo totale è importantissimo, ma attraverso il sistema bancario e attraverso i conti dormienti, chiaramente le risorse si possono assolutamente trovare. 120.000 sono i soggetti coinvolti nel crack della Popolare di Vicenza, 4.000 le istanze di costituzione di parte civile presentate ieri nel primo giorno di udienza preliminare. Per venerdì ne sono attese 15.000, destinate ad aumentare esponenzialmente prima dell'inizio del dibattimento la prossima estate. Dopodomani in aula a Vicenza ci sarà l'ex presidente Zonin, uno dei 7 imputati, che oggi sarà a Roma per testimoniare davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro, restiamo in zona parlamentare per così dire, perché oggi riprende il dibattito sul biotestamento in una giornata che tra l'altro ha visto la nuova udienza del processo a Marco Cappato per la morte, il suicidio assistito di DJ Fabo, con proiezione in aula del video dello stesso DJ Fabo. Un punto sui lavori parlamentari con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Allora, intanto partiamo dal fatto che c'è l'intesa tra i partiti e tra il Quirinale sulla data del voto, che sarà probabilmente il 4 marzo. E quanto avrebbe chiesto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle forze politiche, la roadmap di fine legislatura è quindi presto tracciata, prima l'approvazione della legge di bilancio e del biotestamento, lo scioglimento delle Camere è previsto per il 27 o il 28 dicembre. D'accordo anche il leader della Lega Matteo Salvini, che spinge anche per l'Election Day, ovvero accorpare le politiche alle regionali. Non farlo, dice Salvini, sarebbe uno spreco di denaro, una follia. Al Senato intanto, come annunciavi tu, va avanti il biotestamento. Oggi è stato respinto con voto segreto l'emendamento a firma di Gaetano Quagliariello di Idea, che chiedeva di mantenere sempre i trattamenti di sostegno vitali e quindi l'idratazione artificiale. I no sono stati 163, 80 i sì, 2 astenuti, un segno che la maggioranza regge anche alla prova del voto segreto su un punto così importante del testo. A te Simone. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Siamo alla vicenda di Chris Froome, un altro uomo che stava rapidamente diventando una leggenda del ciclismo e sembra incappare in una storia di doping, però con molti dubbi. Chris Froome, 4 volte trionfatore al Tour de France e recente vincitore alla Vuelta in Spagna, è stato trovato positivo al salbutamolo, un broncodilatatore, durante un controllo antidoping effettuato proprio nella corsa tappe spagnola, il 7 settembre scorso, al termine della 18ª tappa. Lo ha reso noto la Federazione Ciclistica Internazionale, aggiungendo che le controanalisi sono già state effettuate e hanno confermato la positività del primo campione. La concentrazione di salbutamolo, la stessa sostanza per la quale furono squalificati per un anno e per 9 mesi sia Alessandro Petacchi che Diego Ulissi, è superiore alla soglia minima consentita di 1000 nanogrammi millilitro. Se a Froome dovesse toccare la stessa sorte, Vincenzo Nibali potrebbe vincere a tavolino la sua seconda vuelta della carriera, dato che fu proprio il siciliano a contendere al britannico la maglia rossa fino all'ultimo giorno, salendo sul secondo gradino del podio di Madrid. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Milano. Cronache dal maltempo. Sta lentamente allentando la presa la pioggia che negli ultimi giorni ha creato danni e problemi soprattutto nelle regioni al nord e al centro. Resta attiva l'allerta rossa della Protezione Civile per rischio idraulico sulla pianura emiliana centrale e sulla pianura bassa collina emiliana occidentale. Allerta arancione per il rischio idraulico invece sulla pianura emiliana orientale e la costa ferrarese in Friuli e in Veneto. Allarme rientrato per una frana nel Bellunese in mattinata, scattato ieri sera dopo che era stato notato il movimento di una massa di 100.000 metri cubi. Rischiava di cadere sulla bici. Le famiglie però rimangono evacuate in via precauzionale. Terza frana in pochi giorni nel Lecchese. Caduta di massi e detriti sulla strada provinciale 65, interrotta al traffico e la zona resta monitorata per il rischio di nuovi smottamenti. Intanto si lavora per cercare di tornare alla normalità. È stata riattivata questa mattina la linea ferroviaria Savona-San Giuseppe di Cairo via Altare. Il livello idrometrico del fiume Po è sceso di 1 metro a Boretto nelle 12 ore successive alla piena. Per Coldiretti si contano milioni di euro di danni. Riaperte molte strade e intensificati i controlli antisciacallaggio, ma secondo i meteorologi si tratta solo di una breve tregua. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E in parte lo avete già sentito nel servizio della nostra Anna Marina, la vicenda di Perarolo di Cadore. Siamo in linea col sindaco Pierluigi Svaluto Ferro. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Frana enorme da 100.000 metri cubi, da 100.000 metri cubi di roccia che minacciava l'abitato. Le cose sono più tranquille, ci sembra di capire. Ma guardi, siamo ancora nella fase di allarme, quindi la gente è ancora fuori di casa. La strumentazione sta segnando un rallentamento rispetto a questa notte, ieri sera. Dobbiamo però aspettare il rientro totale da parte degli strumenti di misurazione, che sono abbastanza sofisticati, tra l'altro, perché sì, al di là degli estensimetri sì, c'è anche una stazione totale robotizzata che dà la situazione in tempo reale dei movimenti. Sì, da quella ovviamente è una frana preesistente, e poi quando c'è cattivo tempo ci sono cose di questo genere, il rischio è che si stacchi o che acceleri la sua discesa, no? Ho capito bene. Sì, la frana è in continuo movimento, anche se trova un suo equilibrio dinamico, nel senso che si muove in continuazione, però ci sono dei momenti di accelerazione, magari in concomitanza con forti precipitazioni come i giorni scorsi, e di conseguenza ogni qualvolta la soglia minima viene superata inizia tutta una procedura che poi è prevista all'interno dei piani di protezione civile comunale e che ti porta alla fase di preallarme, alla fase di allarme. Ieri sera le condizioni strumentali segnalavano un movimento del valore di circa 2 centimetri all'ora, quindi capite che il movimento c'era ed era anche abbastanza veloce appunto per quella quantità di materiale e per una frana. La ringrazio, grazie a Pierluigi Svaluto Ferro, sindaco di Perarolo di Cadore. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ricominciamo proprio dai danni che ha fatto il maltempo. Beh, ieri vi abbiamo raccontato di quello che è successo a Brescello, di quello che è successo in provincia di Parma, in provincia di Modena, ma questi lavori sugli argini come, quando vengono fatti e se vengono fatti? Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Gerusalemme e dell'incontro a Istanbul tra i leader arabi, con Erdogan che attacca e dice riconosciamola come capitale palestinese, di Ryanair e della minaccia ai piloti italiani in caso di sciopero. Un'operazione che secondo Calenda è indegna di Chris Froome, positivo al doping durante la Vuelta, anche se lui si difende, dice curavo l'asma con dosi lecite. Del voto in Italia, che sarà presumibilmente il 4 marzo, della previsione di Confindustria, che dice il voto porta l'Italia ad un bivio, ci sono rischi di arretramento. Adesso iniziamo il nostro giro d'Italia ricordandovi sempre il nostro numero per gli sms e per i messaggi su WhatsApp, 349-238-6666, e la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo anche in diretta video. Dunque, ieri vi abbiamo raccontato qua in radio e poi avrete dai telegiornali, da quello che vedete su internet, le immagini negli occhi di quello che è avvenuto nel Modenese, di quello che è avvenuto nella zona di Brescello, di quello che è avvenuto anche a Parma. Una serie di esondazioni dovute ovviamente ad una serie di motivi, a partire dal maltempo, ma adesso scenderemo nel dettaglio anche su questo. E la domanda che si riaffaccia sempre, ma questi argini come vengono tenuti in sicurezza? Com'è possibile? E noi, chi ha visto i film di Don Camillo e Peppone, ricorda proprio Brescello allagata. C'è una scena specifica nella quale Don Camillo predica da dentro la chiesa con le gambe immerse nell'acqua e la gente che lo ascolta da lontano, e lui dice andate tranquilli, quando suoneranno le campane vuol dire che il sole è spuntato di nuovo e voi potrete tornare nel paese, questo tornerà il sole e ci uniremo. Quindi sono decenni evidentemente che quella zona si allaga. Ingegner Bruno Mioni è il direttore dell'AIPO, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Che è diciamo l'agenzia che ha il controllo, per così dire, sul bacino del Po. Allora, ci dice un po' come che cosa succede? Qual è il problema? Perché non si riescono a fare i lavori, se si fanno o non si fanno, se vengono bloccati? Cosa succede? Allora, il discorso è molto complicato, io cercherò di riassumerlo in pochi concetti. Evidentemente quello che nel tempo continua a mutare è lo scenario di riferimento. Lei ha appena accennato a Don Camillo e all'evento di Piena di Po del 1951. Allora, da quel giorno, se vogliamo parlare di Po, ma poi parleremo anche insomma di altro, gli argini di Po sono stati progressivamente rialzati e adeguati in sagoma, ma con operazioni direi continue e progressive. L'assetto complessivo delle arginature di Po ormai lo possiamo considerare insomma definitivo ed adeguato a quello che è la cosiddetta piena di riferimento che la programmazione ci impone, quindi sì. Con piene di riferimento di 200 anni nel caso del Po le acque dovrebbero essere contenute all'interno delle arginature sì. maestre, e questo per quanto riguarda il Po. Il concetto è lo stesso anche per i corsi d'acqua, anche per i corsi d'acqua insomma sì, minori. Non tutti sono arginati, lo sapete, però per quanto riguarda quelli che sono arginati il concetto è lo stesso. Sì. Mi permette perché poi prego. Questo tema in parte l'avevamo già affrontato in altre occasioni, perché un tema ricorrente nel nostro paese. Per chiarire agli ascoltatori e per vedere se ho capito bene, cosa succede? Voi prendete in esame le piene che possono avvenire nell'arco di 200 anni, cioè prendete in esame un periodo di 200 anni. In questo periodo di 200 anni, diventa il modo con il quale vi regolate per fare gli argini, o le amministrazioni si regolano per fare gli argini. Dopodiché magari arriva una piena che si verifica una volta ogni 400 anni e questo scombina i calcoli e fa sì che evidentemente si allaghi tutto. Assolutamente sì, proprio l'evento insomma sì di ieri è l'esempio lampante di quello che lei ha appena detto. Allora, nel caso io parlo un attimo dei fiumi emiliani, nel caso del Taro, del Parma, dell'Ensa e del Secchia si sono verificati i massimi livelli storici, quindi le acque da quando vengono misurati i livelli non hanno mai raggiunto il livello che hanno raggiunto ieri, quindi è uno scenario di riferimento che evidentemente è mutato sia rispetto al 1951, ma è mutato anche rispetto nel caso di Secchia a quello del 2014. Non so se ho reso sì, è mutato rispetto appunto anche alla piena del 2014. Sì, ha reso perfettamente il concetto, però l'idea è che a questo punto, visto che questi eventi sono sempre più frequenti, Mioni, si debba ragionare forse su altre scale? Allora, io credo che bisogna partire da due concetti che non è mai piacevole dirlo, ma però questa è la realtà. Ormai il rischio zero non esiste assolutamente. Qualunque cosa si faccia, domani, dopodomani, fra 50 anni, fra 150 anni, ci sarà sempre qualche cosa di peggio. Per cui bisogna porsi un limite al grado di sicurezza che si vuole raggiungere. Nel caso di prima, vi avevo detto, tempi di ritorno 200 anni, nel caso si voglia aumentare il grado di sicurezza, evidentemente si dovrà fare riferimento a piene di tipo diverso, a livelli di tipo diverso e ad opere di tipo diverso. Qualche ascoltatore ci scrive, e qua chiudo, non è solo questione di argini, ma del fatto che per esempio il letto dei fiumi non è mai pulito. Che cosa rispondete voi che proprio di questo vi occupate, Mioni? Beh, allora, intanto c'è fiume e fiume, quindi ogni fiume è diverso dall'altro. Alcuni hanno determinate insomma sì necessità, insomma di pulizia, altri evidentemente hanno altri problemi. Non è che se si toglie tutta la vegetazione da un corso d'acqua, cosa che peraltro non è consentita dalle normative ambientali o comunque da altre normative, si risolve il problema di una piena. Le ipotesi di risoluzione sono molteplici. Sì. L'incidenza di un'operazione di quel tipo su eventi tipo quello di ieri non è veramente molto molto molto molto rilevante, insomma, e comunque si fa quello che si può con quello che si ha, con i fondi che ci sono a disposizione. Questo non è una scusa assolutamente, no, certo, è solo certo. La fotografia questo Amioni, anche per rispondere a una domanda, un ascoltatore che dice con maniera brutale: quindi non avete il cervello per andare oltre i 200 anni? Uno può anche andare oltre i 200 anni, però poi ci vogliono i fondi e ci vogliono gli investimenti per fare tutto questo. Comunque grazie all'ingegner Bruno Amioni, direttore di AIPO, per essere stato con noi e per averci aiutato a spiegare almeno questa parte e come funziona. Poi certamente avete sempre ragione, lo scrivono gli ascoltatori, sì, si può fare di più, certo si può fare di più, come cantava anche il nostro amico Enrico Ruggeri, però si può fare di più, però insomma ci vogliono anche i fondi e bisogna metterceli evidentemente. Di certo si poteva fare di più per le casette che sono andate ai terremotati, perché a quanto pare non reggono il freddo. Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, buongiorno. Buongiorno a voi. È così? No, in realtà questo è l'unico problema che non hanno. Qual è il problema? Beh, i problemi tecnici sono diversi. Io ho evidenziato spesso che la scelta di farle tutte ad un piano era scellerata, perché in montagna è stato difficilissimo trovare le aree, è stata scellerata una ipotesi progettuale con una inclinazione così bassa dei tetti. Non è un caso che, se uno pensa ad uno scenario alpino che climaticamente parlando è simile al nostro, immagina le case con questi tetti molto spioventi. È una necessità legata al fatto appunto di non far accumulare troppa neve. Certo. È stata scellerata la scelta dei tubi non coibentati che salgono quasi fino a metà parete, del boiler esterno con l'impianto solare, cioè soluzioni che io ho definito di località marine, non di certo località montane. E questo... L'unico problema che non hanno invece è quello dell'isolamento termico e acustico, perché essendo fatte di legno e polistirolo, da un punto di vista per forza, di efficienza termica... Da quel punto di vista, reggono. Sì. Quindi tubi non coibentati fuori, ma no, esatto, in montagna. È meraviglioso, si fa per dire. Siamo scesi a 10 gradi sotto zero anche l'altro ieri, e infatti in alcuni tetti c'era sopra la rottura del boiler, sembrava appunto una fontanella, c'era lo zampillo, perché chiaramente a quelle temperature non potevano reggere. Non potevano reggere, i tubi si sono rotti. Ma tra l'altro quante ne sono arrivate, Pazzaglini? Poche. Ne sono arrivate poche, ma questo si lega direttamente a quello che dicevo prima, le scelte tecniche sbagliate anche con riferimento alla tipologia. Se fossero state fatte a due piani, non solo avremmo speso molto di meno, perché avremmo urbanizzato la metà delle aree, avremmo dovuto far molti meno lavori di messa in sicurezza, quindi muri, tiranti, pali e tutto quello che è stato fatto, e in più avremmo fatto prima, quindi si sarebbe speso probabilmente un terzo e ci sarebbe voluta la metà. Quindi sarebbe stato anche meno costoso, Pazzaglini, secondo lei? Meno costoso, perché non solo avremmo urbanizzato la metà delle aree, però se adesso in montagna con pendenze, con fiumi, fossi, ci sono state necessità importanti, dover urbanizzare la metà delle aree avrebbe significato individuare aree che si prestavano meglio, con una pendenza magari più bassa, e quindi molti muri di sostegno non avremmo dovuti farli, i tiranti non sarebbero stati più necessari, i pali non avremmo dovuto farli, e quindi si sarebbe speso probabilmente un terzo e si sarebbe fatto molto prima. La ringrazio, grazie a Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, che ci sta segnalando, è uno dei sindaci che segnala problemi. Ma immagino, Pazzaglini, giusto per chiudere, che lei abbia sentito altri suoi colleghi che hanno verificato più o meno gli stessi problemi, no? Allora, ha evidenziato che purtroppo io sono stato spesso forse lasciato solo in questa mia attività di denuncia, non capisco perché, ho sempre evidenziato che il nostro unico dovere era nei confronti dei nostri cittadini, però evidentemente il timore che queste denunce esplicite possano avere ripercussioni qualche collega ce l'ha. Secondo me è un nostro dovere anche morale, anche nei confronti di chi vuole aiutarci, e ce ne sono di persone che stanno cercando di farlo, evidenziare anche quello che non va, altrimenti purtroppo non si risolvono i problemi. E quindi do per scontato che quello che denuncio io sia stato riscontrato anche in altre realtà, mi sarebbe piaciuto che magari avessimo fatto un fronte comune per poter cercare di essere più incisivi, perché singolarmente di voce purtroppo ne abbiamo poca. Siamo talmente piccoli che singolarmente ognuno di noi ha poche possibilità di farsi ascoltare. E noi voce ve la diamo comunque, grazie a Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo con una piccola storia. Sapete com'è? Tanto parliamo di ATAC e poi ci dite che ce l'abbiamo con il Movimento 5 Stelle, con Virginia Raggi, e poi ci sono anche piccole storie che arrivano, per esempio da Como, dove hanno fatto male le revisioni degli autobus e quindi hanno rischiato di fermare l'intero trasporto pubblico comasco per qualche giorno. Poi è andata un po' meglio, però così è. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: Gerusalemme, Erdogan ospita i leader arabi, attacca, riconosciamola come capitale palestinese, Mosca dice non è la nostra posizione, Ryanair minaccia i piloti italiani in caso di sciopero per Calenda è indegno, intervista al Jus lavorista, atto illegittimo. Chris Froome positivo al doping durante la Vuelta, avrebbe usato un broncodilatatore, curavo l'asma con dosi illecite, dice lui. Al voto quasi certamente, secondo le ultime indiscrezioni, al 4 marzo, con il voto Italia al bivio e rischi di arretrare, dice Confindustria. L'Alabama elegge un senatore democratico dopo 20 anni, la maggioranza di Trump scende a soli 2 voti. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. A chiudere in pochi minuti, anche perché è una piccola storia, il nostro Giro d'Italia ci porta a Como. Tanto abbiamo parlato, ve lo dicevo prima, dell'ATAC, no? Dei suoi infiniti problemi, chiaramente la dimensione dell'ATAC, quanto ci si è mangiato sopra, l'enorme buco che ha, non consentono paragoni, però per darvi l'idea che anche al nord, insomma, ogni tanto qualcosina sfugge via. Nella fattispecie parliamo delle revisioni degli autobus di Como, 78 libretti di autobus sequestrati, e scrive il giorno oggi il rischio di paralisi del trasporto pubblico. Dovremmo avere in linea Anna Rita Polacchini, che è amministratore delegato dell'azienda pubblica Comasca e gestisce il trasporto locale. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, si fermano gli autobus o no? No, non ce li fermano fortunatamente, nel senso che effettivamente ieri abbiamo subito un provvedimento di sequestro dei libretti per delle presunte comunque irregolarità sui tempi che sarebbero stati impiegati dall'ingegnere della motorizzazione per fare effettivamente i controlli tecnici. Detto questo, abbiamo trovato, direi molto rapidamente, anche una soluzione con la stessa motorizzazione per arrivare a ripetere le sedute in questione in un arco di tempo di 30 giorni. E quindi ci hanno rilasciato un cosiddetto foglio di via per poter circolare regolarmente. Sì, che non è quello per andar via, appunto. No, non è foglio no. Di via, inteso. Perché tutto nasce in realtà da un'inchiesta, no? Un'inchiesta che a fine maggio ha portato in carcere il direttore della motorizzazione di Como, Antonio Pisoni, e una serie di titolari di autoscuole, tutti accusati di falsi e corruzione per rilasci irregolari di patenti per autisti di mezzi pesanti. Oh, non è che ci sono coinvolti anche i vostri autisti, no? No, fortunatamente. Su quelli il controllo è un po' più rigido, no? Assolutamente. Ma... sì. Benissimo. Quindi gli autobus circolano, tutto a posto, anche se c'è questo tema delle revisioni. Revisioni che non venivano fatte o venivano fatte no, un po' no. Così? Un po'... Ci tengo a precisare che le revisioni sono state fatte, anche perché noi abbiamo attrezzato una pista revisioni, quindi le revisioni vengono fatte, diciamo, in loco dall'ingegnere della motorizzazione, ma in uno dei nostri depositi. E quindi la stessa motorizzazione ci aveva imposto un paio di anni o sono di ammodernare la nostra pista revisioni visioni con tutte le ultime ritrovati della tecnica, e quindi le revisioni venivano fatte secondo i loro rilievi, i tempi dedicati a ciascun veicolo erano inferiori rispetto agli standard previsti minimi dalla motorizzazione stessa, quindi il problema è questo, non il c'è nessun problema di sicurezza burocratico, un problema burocratico, tecnico burocratico per così dire. La ringrazio, grazie a Narita Polacchini, amministratore delegato dell'azienda pubblica Comasca che gestisce il trasporto locale. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire i mercati, Platero, e poi alla fine ci risentiamo per i saluti.